E buonasera dai Colori dell'Anima, con me Carla e Angelo alla regia. Beh, stasera, come dicevo qualche minuto fa, siamo in compagnia di due ospiti, Manuela Jane Conconi e Giampaolo, il cui cognome Giangiani, ciao a mi è tutti. ignoto. E parleremo di Bruxelles vista dagli antipodi dell'Italia e capirete ben presto perché. Ma prima di parlare e arrivare al cuore della trasmissione, ci piacerebbe dare il numero di telefono ai nostri radioascoltatori, che è lo 02 345 26 56. Ma chiamateci, aspettiamo le vostre telefonate con commenti, insulti, eccetera, eccetera. Aspettiamo commenti. Che dire? Io darei la parola a Manuela. Buonasera, Manuela. Buonasera Carla, buonasera Angelo, buonasera a tutti. Ecco, abbiamo detto tutto. Chi è qui fuori, chi passeggia, chi si trova, chi i radioascoltatori. Tra l'altro stasera abbiamo anche dei radioascoltatori in streaming dall'Italia. Quindi un salutone a tutti. Bene, Manuela, ti abbiamo invitato qui stasera per un ovvio motivo, cioè che ci piacerebbe conoscere un po' la tua esperienza, come sei arrivata a Bruxelles, da dove vieni. Sì, allora io sono a Bruxelles adesso da 1 anno e mezzo. È la mia seconda esperienza a Bruxelles, avevo già fatto un anno nel 2007 e vengo da Arese, provincia di Milano, nel caso non fosse chiaro dopo. Sottolineiamo che non è No, Varese. non è Varese, è Arese, piccolina, carina, in provincia di Milano. E, sì, quindi sono ormai 1 anno e mezzo che sono qui, sono arrivata facendo un corso di 3 mesi e, boh, come tutti, penso, quelli che arrivano a Bruxelles, che devono fare un corso di 3 mesi, sono rimasta. Certo, a me era uno stage di 6 mesi, vabbè, tre, sono Esatto. qua da 3 anni. E lavoro per un'associazione che si occupa di energia eolica, le pale Le eoliche. pale a Don Chisciotte. Esatto. Sì, quindi penso che sia un'esperienza bellissima. In questo momento non ho nessuna intenzione di tornare in Italia. Perché? Questa non l'ho mai sentita. No, mai no, però ecco, c'è sempre quella cosa, però comunque vorrei. Perché l'ho provato, cioè sono stata qui 1 anno, sono Ah, tornata in giusto. Italia, convinta che stessi facendo la scelta migliore, e poi sono tornata qui, per cui probabilmente qualcosa non è E che andato cosa è così. successo in Italia nel frattempo? Ma lavoravo, avevo un contratto a tempo indeterminato, Wow. quindi un sogno penso per ogni giovane italiano in questo momento, e mi sono licenziata. Sì, Oddio, ho uno shock, aiuto, mi sento male. mi sono licenziata per venire a Bruxelles. No, pazza, basta. Esatto. Io sono Passereste? scioccata. Acqua e zucchero. E perché ti sei. Non voglio entrare nei No, dettagli, no, no, no. però è una cosa talmente inusuale da sentire Ma che. un po' perché penso che io ho studiato scienze politiche, in Italia facevo tutt'altro. Dove? Ho studiato all'Università Cattolica di Milano. Ok. E poi ero venuta a Bruxelles per fare uno stage appunto nel 2007, avevo trovato lavoro qui in un settore che è quello degli affari europei che mi interessa, mi piace, ma al momento no, le cose non erano andate come pensavo e quindi come speravo più che altro. Sono tornata a Milano, ma è qui che posso trovare veramente il lavoro che mi Le piace. pale Sì, le che ti pale, sono attirano. stata attratta dalle pale e quindi sono tornata qui. Anche le patatine fritte, di la Anche. verità. È Anche le tutta una patatine. questione di patate fritte. Esatto, che sono l'unica specialità belga che mangio perché non bevo Con la birra. sugna, diciamolo che il segreto è la sugna. Lo sapevate? No. Ecco. Ma quello è il motivo. Cos'è? Siccome ad Arese non c'avevano la sugna, dice io torno su a Cos'è la sugna? Bruxelles. Ecco, questo è Le bellissimo. differenze enormi sono. Questa è Bruxelles vista dagli antipodi dell'Italia. Non Cos'è so. la sugna? La materia grassa del porco, sarà Lo questo? strutto. Bravo, in italiano. Vedi, loro hanno un termine italiano per tutto, eh. Vedi, vedi, noi invece abbiamo un termine in dialetto per tutto che si uniforma da, diciamo, da Roma in giù. No, anzi, forse Roma no, da, non lo so, da Frosinone. Ciociaria. Beh, la canzone che hai scelto. Sì, O mia bella Madunina. Vabbè, penso che sia la canzone milanese per Un po' eccellenza. cliché, Un po' diciamolo, un cliché, po' però cliché. secondo me dice delle cose vere. Tipo? Tipo che in fondo a Milano non siamo tanto bravi a venderci, non stiamo tanto simpatici. Mm. cioè, lo so. Però tu sei simpatica. Però, sì. se no me ne vado. No, nel senso che non siamo molto simpatici. Comincia la canzone e tutti cantano magari canzoni quanto è bella Napoli, quanto è bella Roma e Milano, nessuno se la fila. Però poi vai a Milano, è piena di napoletani, è piena di romani, no, non tanti, però è piena di gente da tutte le parti d'Italia. E Milano non sarebbe Milano senza queste persone, per cui fanno parte di Milano. Che bello. Cioè, Milano è bella perché è così. E come dice il finale della canzone, siete venuti senza paura e noi vi tendiamo la mano. Quindi ed è vi vero. Io parlo per me. Io non cioè, lo so, secondo, non ho mai vissuto me, a Milano. Sì, secondo me sì, nel senso se la gente comunque viene a Milano. Quindi e ci sta. Poi è un po' come Bruxelles, tutti arrivano, lavoro qui un paio d'anni e poi torno al poi mio paese. Poi c'è chi se ne va da Milano, ma è ancora un'altra cosa, ancora un'altra esatto, storia. Sì. E su quello che ha detto Manuela io lancerei un pezzo che si intitola proprio Go With Me. E questi erano i Saga Suitcase con la loro potenza memorabile. Alla batteria c'era Giuseppe Mautone, al violino David Engler, alla voce Annick Brink e al basso Katrin Ebert. E in studio abbiamo con noi, come vi dicevamo prima, Manuela da Arese e Giampaolo da Tusa, che presenteremo tra poco. E dicevamo prima Carla, abbiamo introdotto Manuela, riprendiamo a parlare di Arese e di Manuela. Beh, un ascoltatore che così sentirà i colori dell'anima, si sintonizza su 100, ricordami la frequenza? 101.9. 101.9 e dice Manuela da Arese, ma che c'è ad Arese? Ok. Ce lo chiediamo tutti, che c'è ad Arese? Anche io ieri sera non riuscivo a dormire, dico... Ad Arese ci sono un sacco di cose. No, allora, Arese è pochi chilometri da Milano. Però quanti? Ma in linea d'aria in gradi Celsius in linea d'aria confina in watt con Milano, però dall'alto dell'autostrada, quindi è un po' impossibile accederci direttamente. No, saranno 15 chilometri. Ok, quindi veramente sì. Attaccata. Sì, no, è attaccata a Milano, nord-ovest di Milano, quindi per chi non conosce Milano, nord-ovest, va benissimo. No, ad Arese però c'è il museo dell'Alfa Romeo. Ecco, io penso che c'è stata la fabbrica dell'Alfa Romeo per un sacco di anni, dal 63 precisamente. Cioè gli stabilimenti ci sono ancora, fino a quando... però non c'è nessuno dentro. No. C'è una piccola parte, una piccola equipa ancora, ma non... Madonna, c'è delle pulizie, esatto, il piccolo chimico, un ingegnere e... Esatto, probabilmente... Non so, è un aiutante, un operaio. Sì, e qualche gatto che girano, perché è una struttura immensa. Sì, è stata era Milano, è stata spostata ad Arese la produzione nel 63 e da... qualche anno, ormai penso più di 10, non c'è più, non si produce niente. Però c'è il fantastico museo storico dell'Alfa Romeo, che è una cosa che va vista, nel senso per tutti gli appassionati di macchine. Quando l'ho visto, ci sono stata più di una volta, è piena di stranieri. Cioè la gente viene ad Arese per vedere il museo storico grande dell'Alfa Romeo. Quindi che okay bella cosa. Sì. Ma... Arese ne ha risentito della chiusura della fabbrica? Secondo me non... Oddio, allora, una domanda stupida, perdonamela. No, non però è voglio stupida. Dire come ne ha risentito? Perché allora, forza. Arese, la fabbrica dell'Alfa Romeo è sul confine tra Arese e un altro paese che è Garbagnate. Mm-hmm. E diciamo che la manodopera, gli impiegati, gli operai... erano divisi due paesi, diciamo che ad Arese c'era più la parte dirigenziale, se si vuole, l'Alfa Romeo, mentre a Garbagnate dove vivevano più che altro gli operai. Quindi non Arese sì, ne ha risentito, ma forse a un livello meno drastico che in altre zone okay dell'Interland. Sì. Benissimo. Beh, io a questo punto, dopo la mia bella Madunina, mi piacerebbe lanciare il pezzo che... Sì, prima però ha chiamato prima, mentre c'era il pezzo dei Saga Suitcase, Go With Me. C'è stata una telefonata e infatti mandiamo i saluti al signor Pinotto da Crema. e perché ci ha chiamato e lo salutiamo calorosamente. Ciao. E lanciamo il prossimo brano per presentare il nostro prossimo ospite, ed è Abballati di Roberto Alagna, che ha appena rifatto questa versione. Ma restando in tema di musica e di spettacolo, io darei la parola a Rosanna, la regia, che ha un messaggio da far passare. Sì, buonasera a tutti i radioascoltatori dei Colori dell'Anima. Volevo dire semplicemente questo, che domani c'è una serata con un concerto di Iva Zanicchi, è una serata dell'amicizia italo-belga. E il concerto, anche se non vi piace Iva Zanicchi, fatevelo piacere. Dico questo perché i fondi di questo concerto andranno a beneficio di alcune associazioni, e in particolare dell'associazione VAI, Volontarie Assistenza Italiani. È un'associazione che penso gli italiani che vivono in Belgio conoscono bene. Alcuni rappresentanti di questa associazione sono venuti anche in radio qualche mese fa, e il concerto è domani, quindi 27 marzo 2012, al Teatro Saint-Michel alle ore 20:30. Oltre a Iva Zanicchi ci sarà anche il concerto di Iva Zanicchi sarà seguito anche da musica di Max Busuoli e della band Cialtro Night. Quindi domani Saint-Michel alle 20:30 potete fare per questo concerto. Quindi, se comprate i biglietti, vi chiediamo di dire che appunto volete che i fondi vadano alla VAI, Volontarie Assistenza Italiani. Grazie. Sappiamo il prezzo del biglietto? Sì, il biglietto è 20 euro. Probabilmente comprandolo direttamente sul posto costa un po' di più, ma diciamo è tra i 20 e i massimo 25 euro. Ma diciamo che è anche per una buona causa. Assolutamente. Quindi che ben venga. E poi, certo. Insomma, Iva Zanicchi comunque è un'artista italiana che ha un bellissimo percorso artistico in vari campi, adesso è in politica, ma comunque insomma resta, sì, Iva Zanicchi. Ok, il prezzo è giusto. Esatto, il prezzo ci sembra giusto, soprattutto per lo scopo benefico. Benissimo, questa quindi era Abballati. Ritorniamo a, sì, Giampaolo. Prima di aprire il microfono a Giampaolo, ricordiamo ai nostri telespettatori il nostro numero di telefono. Chiamateci e mandateci anche sms al numero di cellulare 0471 40 78 04 per le chiamate dal vivo. Vai Carla. 02 345 26 56 e il prezzo è sempre giusto. E oppure scriveteci sulla nostra pagina Facebook Angelo e Carla. Mettete mi piace se vi piace, e però purtroppo non c'è il bottone non mi piace, quindi cliccate mi piace. Vai con Giampaolo. Benissimo, allora Giampaolo da Tusa. Ciao a tutti, ciao Carla, Manuela, ciao Angelo, ciao anche ciao a chi ci ascolta, siamo parecchi. Allora, che dire, io sono a Bruxelles da 2 anni e mezzo, vengo da questa magnifica isola che è la Sicilia, in mezzo al Mediterraneo, e vabbè, come si capisce sono particolarmente orgoglioso delle mie no, amici. Non traspariva, no. E niente, sono venuto qua a Bruxelles dopo aver finito l'università, perché avevo intenzione di continuare a studiare e sentivo già una passione verso il diritto comunitario, l'Unione Europea. Io mi sono laureato in giurisprudenza, e quindi quale posto migliore di Bruxelles per continuare gli studi in questo settore. E vi interrompo perché è arrivato il primo messaggio. È da Salerno, Campania, quindi Italia, ci stanno ascoltando. Quindi un saluto da Salerno a Giampaolo, a Carla e a tutti voi, anche a Manuela. Ciao Salerno! Ciao Salerno! Grazie di ascoltarci. E allora niente, dicevamo, sono venuto qua per studiare, ho fatto un master, sempre in diritto comunitario, dopodiché ho cominciato con un piccolo stage di qualche mese in uno studio legale, poi sono passato a un altro e tuttora lavoro in uno studio dove faccio, diciamo, lo stagiaire, l'apprendista avvocato. L'apprendista avvocato. E si spera presto di poter fare l'avvocato. A differenza di Maru Jane, ecco, è ancora la mia prima esperienza a Bruxelles, okay. Però devo dire che sono partito con l'idea di restare un poco, di fare la mia esperienza, magari di studiare e rientrare subito in Italia, anche perché l'impatto è stato abbastanza, diciamo, pesante, soprattutto dal punto di vista meteorologico, perché avendo lasciato i miei 30 gradi con col mare, col sole e quant'altro, arrivare su a Bruxelles e vedere questo cielo grigio, e un attimo c'era la voglia di tornare subito giù. Invece col tempo ho imparato magari un po' ad apprezzare anche questa città, quello che può offrire, e quindi per adesso sto qui, sto bene. Mi training autogeno la mattina davanti allo specchio, sono forte, ce la farò. Comunque, mi piace questo posto. Comunque dobbiamo segnare 1-0 per la mia bella Madonnina, perché è arrivato il primo messaggio indirizzato a Manuela: un bacio alla mia bella Madonnina, firmato Mazzo Lux. Quindi io spero che i tuoi ascoltatori in Sicilia ti stiano ascoltando. Ricordiamo il numero 0471 40 78 04, per chi stesse chiamando dall'Italia dovete aggiungere 0032. Vai Giampaolo, scusami. Vabbè, allora attendiamo. Beh, lo fa apposta, lo fa apposta, secondo me, ti interrompo. Senti, una domanda, ma anche tu devi ancora affrontare questo mattone enorme dell'esame di Stato? Diciamo che sono in pieno mattone, se ecco. Si può dire. Nel senso che ho passato la prima parte, ho sostenuto la prima parte, ma ancora aspetto i risultati. Okay. E quindi aspettiamo questi risultati degli iscritti e poi si vedrà. Okay. E niente, è un momento un po' così di attesa. So che sei appena tornato dalla patria siciliana, è vero? Sì, rientrato ieri sera. Diciamo che ci ha portato una parte della Sicilia. E diciamo che sono anche stato invitato a casa sua a cenare. E ragazzi, io non vi dico, è stato un'apoteosi. A parte i due cannoli siciliani alla fine, freschi di giornata, abbiamo goduto veramente culinariamente ieri sera. Grazie ancora. Ecco, infatti c'è il bottone del pantalone che sta per schiattare. No, io l'ho già aperto. Vabbè, lui va in salopette. No, era bella tipo vedere, un uomo incinto. Era bella vedere l'espressione di giubilo che aveva ieri sera dinanzi al vassoio dei cannoli. Quanti erano? Ma Angelo, erano 8. Erano 8, sì. Erano 8. E niente, noi avevamo provato a chiamare altri amici, però erano tutti impegnati. Però ve li siete mangiati tutti. E che potevamo fare? Il cannolo va mangiato fresco, è obbligatorio. E adesso, in realtà, per restare in ambito cannolesco, ci vorremmo deliziare. Sì, anche perché da questo momento in poi vi abbiamo, diciamo, presentato i nostri due splendidi ospiti. Io ve li vorrei far vedere qui in studio. Belli, io belli, li vedo dalla belli. Regia. Meno male che vedo il mio riflesso nel vetro, così non li vedo, però no, non è vero. E adesso la trasmissione si spacca, perché abbiamo presentato gli antipodi, e dopo il prossimo brano che introdurrò vedremo questi due antipodi qui a Bruxelles, quindi analizzeremo più a fondo le loro storie qui a Bruxelles. Io intanto vi voglio parlare di Francesco Paolo Marziani. Voi dite, ma chi è questo Francesco Paolo Marziani? Innanzitutto è un amico. Lui nasce a Napoli nel 1980, è un pianista e si approccia al jazz all'età di 22 anni. Ha studiato con Barry Harris, Kenny Barron e molti altri ancora. E con Gianluigi Goglia, un grande contrabbassista e bassista della provincia di Napoli, e nella sua carriera ha vinto premio come miglior talento a Baronissi Jazz 2006, premio Massimo Urbani nel 2008, premio Jimmy Wood come miglior pianista nel 2008 e ancora altri premi ha vinto. Ha partecipato a festival nazionali quali Umbria Jazz Winter, Tuscia in Jazz nel 2006, 7 e 8. Nel 2010 ha partecipato all'Ariano Irpino Jazz Festival. Ha inciso con Sean Monteiro e Massimo Manzi e Massimo Morriconi un album, In My Own Sweet Way, e da questo album che noi estraiamo proprio per voi una composizione che si intitola Valzer per il sonno di Andrea. Questa composizione è stata scritta da Francesco Marziani perché mi raccontava, l'ho incontrato su Facebook oggi, mi raccontava che c'aveva un cugino che si chiamava appunto Andrea, che a lui piaceva molto, era, penso sia bambino perché non ha specificato, io voglio... No, a me pare di no. Ah, ok. E comunque... Francesco, mi correggerai se sbaglio, ma a quanto pare era un tuo amico che la mattina non ne voleva sapere di svegliarsi. Sì, i miei miei ricordi sono buoni. Ah, ok. Comunque mi diceva che niente, questo suo amico gli piaceva molto dormire la mattina e niente, quindi ha composto e gli piaceva particolarmente questa composizione. Con questa composizione lui dormiva veramente in una maniera angelica. Poi perché è un valzer che sì, insomma concilia. E poi dovete sapere che veramente Francesco Marziani è veramente un pianista di quelli lì con i controcosi, e io ve lo lascio ascoltare. Francesco Marziani, valzer per il sonno di Andrea. Ed eccoci ritrovati ai Colori dell'Anima, con me, Carla e Angela alla regia. E questo era Francesco Marziani, un grandissimo pianista, per chi si fosse messo all'ascolto adesso, di Napoli, e questa era una sua composizione, valzer per il sonno di Andrea. Vi ricordiamo che Francesco Marziani lo potete trovare su internet all'indirizzo www.francescomarziani.it e anche sulla sua pagina Facebook. E ritorniamo in studio con i Colori dell'Anima. Ricordiamo i numeri di telefono, che per gli SMS anche dall'Italia, anzi sì, chiamate dall'Italia, è 0032 471 407804. Ripeto, dall'Italia 0032 471 407804, e costa 12 centesimi, quindi non fate i tirchi, mandate gli SMS, soprattutto perché Giampaolo è a 1-0, sta vincendo a Rese, perché a Manuela hanno mandato un messaggio, quindi siciliani, arruto amone. telefonate. Ritorniamo in studio con Carla, Manuela e Giampaolo. E il numero fisso, abbiamo dimenticato di dirlo, è lo 02 345 26 56, per chi volesse chiamarci in studio ed essere in diretta con noi. Bene, quindi il titolo della nostra puntata era Bruxelles vista dagli antipodi dell'Italia. Quando ho pensato a questa trasmissione, nella mia testa c'era un'idea che potrebbe essere un'ipotesi sbagliata o vedremo nel corso di questa discussione. Beh, cosa ho pensato? Ho pensato che gli occhi con i quali guardiamo Bruxelles, in questo caso, ma gli occhi con cui guardiamo il mondo, sono gli occhi che comparano quello che vediamo a quello che conosciamo. Quindi in questo caso Manuela conosce la Lombardia, Tusa, dove ha studiato, dove Arese. Sta. Tusa, non ci sono ancora. Mi hai capovolto l'Italia. Vedi, quella è la bellezza dell'essere versatili, io in confondere tutto. Scusami, c'era sta accento un po' familiare. Con un po' di ricotta che scendeva dal cannolo fa. E Giampaolo giustamente ha gli occhi soleggiati di Tusa. E cosa ne pensate? Cosa vedete in Bruxelles? Quali sono i vostri punti di vista? Cosa è più difficile per voi? Cosa è stato difficile lasciare, per esempio? Beh, Giampaolo un po' ce l'hai detto. Però... Diciamo che l'impatto peggiore è stato sicuramente con un clima completamente diverso. Non tanto magari per la temperatura, però per la luce. Per chi viene dalla Sicilia, certo, manca tanto la luce qui a Bruxelles. E anche a chi viene da Milano manca la luce. Pensa a te. E a livello, a parte il tempo, diciamo, volendo scavare un po' di più, non lo so, a livello organizzativo, come è fatta la città, come sono fatti i marciapiedi, non parlo a livello architettonico, dico quello che si incontra quando si circola per la strada, per la città. Cosa hai riscontrato? Quali sono le differenze o le similitudini, se vuoi? Beh, su questo tema io, diciamo, la mia esperienza è stata... T'ho colto di sorpresa, di la verità. Un po' sì, ma neanche tanto alla fine, perché quando sono arrivato a Bruxelles la prima volta, io non venivo dalla Sicilia, mi trovavo in Irlanda per un periodo di studio. Ti pareva. E quindi la prima volta che ho visitato Bruxelles ho avuto un'immagine che è un po' distorta. E sempre rientriamo in quel gioco del vedo le cose a seconda del posto da cui vengo. E venendo da Dublino, che è una città, diciamo, molto più nordica di Bruxelles, dove è tutto a posto, dove è tutto ordinato, dove è tutto anche un po' noioso, se vogliamo dire, dal punto di vista dell'organizzazione. Ecco, quando sono arrivato a Bruxelles, era agosto, c'era una bella giornata di sole, cosa che ho appreso, è proprio una cosa rara. E niente, la prima cosa che ho pensato, è sceso dalla... Uscito dalla stazione, ho visto qualche buca nella strada, ho visto un po' di immondizia sul marciapiede. Mi sento un po' più a casa, ecco. Ce ne vorrebbe un po' in più, almeno per quanto mi riguarda, ma... Sì, no, infatti, poi niente, se faccio il paragone comunque con le nostre città, chiaramente vedo tanti aspetti della vita organizzativa, della vita sociale, che sono magari un po' più curati a livello di servizi offerti ai cittadini rispetto alle nostre città meridionali. Però bilanciamo magari con una diversa personalità. A Bruxelles quello che mi manca a livello proprio architettonico, proprio di ambiente, sì, è la personalità della città. Ah. Che rispetto ai posti magari da cui vengo, che sono pieni di storia, pieni di arte, qua magari si avverte un po' questa differenza. Ok, grazie Gianpaolo. Manuela. Sì, allora, come dicevo, anche a Milano, cioè anche a chi viene da Milano manca la luce a Bruxelles. Sì, manca anche la nebbia, posso dirlo? Da milanese. Grandioso. No, questa è una cosa incredibile. Sì, perché a me la nebbia piace. Vedo tutto. Sì, qui non c'è, cioè quella nebbia che però è triste a Bruxelles, è una nebbia diversa. La nebbia triste. Sì, perché quando c'è la nebbia a Milano, poi è un giorno di sole. Se c'è la nebbia la mattina... Ma la nebbia come può essere più triste? Può essere. Qui c'era Rosanna che mi diceva, ma come fa a essere più triste? Oh. Vieni, passate un mesetto a Milano e poi venite a Bruxelles quando c'è la giornata. In pratica annuncia il sole la nebbia. Sì, quando c'è nebbia è una bella giornata. Ah, non contemporaneamente. Vabbè, no, non contemporaneamente. Questo no, l'avete elaborato poi con gli anni, perché uno poi deve accontentarsi delle motivazioni. Esatto, probabilmente sì. Però a Bruxelles non mi pare succeda. Nel senso, quelle giornate di nebbia a Bruxelles poi resta grigio, si sposta il grigio in cielo e basta. Però per quello che diceva Gianpaolo, l'organizzazione, io non trovo Bruxelles così organizzata. È la differenza, ecco. Nel senso, anche Milano non è che probabilmente se prendiamo Milano e la confrontiamo con Stoccolma, ok, non è organizzata, e quando sei a Milano ti lamenti di tutto, come però, dire, tutto è relativo. Esatto, però quando vieni a Bruxelles poi rimpiangi qualche cosa di Milano. Del tipo la metropolitana. Sì, io rimpiango la metropolitana milanese. Non c'è un guasto ogni 2 giorni di solito, non c'è un messaggio, la linea interrotta ogni 2 giorni. Mi sta venendo voglia di andare a Milano a prendere metropolitane e vagare nella nebbia felice. L'esperienza da fare. Benissimo, adesso mi piacerebbe fare una piccola parentesi, in quanto mercoledì, cos'è Angelo? 4 Mercoledì 4 aprile alle 20:30 al fonografo Rue de la Violette a Bruxelles Mill, quindi al centro centro storico di Bruxelles, ci sarà un concerto di Angelo che presenterà il suo album Alla ricerca delle radici, Searching for the Roots, Alla ricerca delle racine. di sassofono solo, sì. Niente di preregistrato, solo lui, il suo sassofono e la loop session. E il brano che vi faccio ascoltare è Ballando in Si. Qui ai Colori dell'Anima su Radio Alma siamo con Gianpaolo e Manu Jane a parlare di Bruxelles vista dagli antipodi dell'Italia. E mi piacerebbe concludere con una domanda. Ricordiamo magari ancora i numeri di telefono per chi volesse ancora chiamare o inviare un messaggio. Allora, numero fisso 02 345 26 56. E per gli sms dal Belgio 04 71 40 78 04. Dall'Italia basta aggiungere 00 32 471 40 78 04. E la domanda che mi piacerebbe rivolgere a Gianpaolo e Manuela è: che cosa cercano in Belgio? Ok. Domandona. Tosta, E dopo c'è Iva Zanicchi che dice che il prezzo è giusto e vi fa un applauso. Allora, parto io? Ma sì, vai. Allora, quello... Sei già in vantaggio, Manuela. Esatto, sto vincendo 1-0. Quello che cerco in Belgio... Telefonate. Ma io penso che Bruxelles mi stia già dando quello che cercavo. Cioè, quello che io in fondo cercavo è una dimensione dove una persona della mia età, giovane, possa vivere serenamente la sua vita. Cioè, che significa per me avere un lavoro normale? Ecco, che cosa significa per te? Per me significa avere un lavoro che ti piace, che sia in linea con quello con cui hai studiato, con le tue aspirazioni, che sia pagato decentemente, che ti permetta quindi di avere una vita... Diciamo tra i 3.000 e i 5.000. Anche tra i 5 e i 7. 1 a 1! Attenzione! No. Attenzione, attenzione! La Sicilia si fa sentire! Grande. Un bacione siciliano a Giampaolo e a tutti voi! Da Nelly! Ciao Nelly! Chiamate a Rese. Ciao Nelly. Ciao, ciao Nelly. Nelly. Nelly credo che sia mia sorella. Grande. Sì, quella di prima penso fosse mia madre. Vabbè, però siete 1-1, quindi vediamo chi vince. Chi vince? Chiamate 0032 471 407804, oppure la telefonata in studio vale doppio, quindi fate vincere. Mamma, il numero 02 345 26 56. No, quindi dicevo, secondo me quello che appunto dicevo prima, un lavoro che ti consenta poi di avere quindi una vita sociale, privata, di conseguenza in linea con le tue aspettative. Sì, un ambiente internazionale. È un po' di nebbia. Un po' di nebbia, magari arriverà. Un po' di nebbia che porti il sole. Bene. 2-1 per Giampaolo. No. Però penso che sia la stessa persona e quindi non vale, forse perché non si è firmata. Forza Giampaolo, sei unico, siamo orgogliosi di te, sei tutti noi. Però non si è firmata, quindi... non so, vedremo alla fine. Un altro messaggio di chiarifica e rettifica. C'è imbroglio, c'è imbroglio. Esatto. Giampaolo. Ma anche a me, come a Manuela, penso che Bruxelles abbia dato tanto. Innanzitutto tante patate fritte. Questo è sicuro. Cozze. Ma di patate fritte non se ne può più. Però al di là di questo, la cosa bella di Bruxelles è sicuramente questo essere multiculturale, nel senso che si ha la possibilità di fare di conoscere tanta gente interessante, e mi piace pensare che Bruxelles sia un posto che ti dà la possibilità di viaggiare senza spostarti più di tanto. Questo è qualcosa che magari non cercavo appositamente, ma che sicuramente ho trovato e ho apprezzato. Poi in generale coincide un po' con quello che volevo cercare andando via da casa, che non era tanto il desiderio di fuggire quanto quello di capire come funziona il mondo da un'altra parte. Ragazzi, qua mi stanno sommergendo di SMS. Per Manuela, guarda che se quindi siamo due a due, per Manuela, guarda che se era solo questione di pale, te le costruivo io, che sono ingegnere. Marco, olli. Adesso, grande, grande. Forza Giampaolo, il miglior rappresentante della Sicilia a Bruxelles. 3-1, e no Simone, ti sbagli, siamo 3-2. Bravi ragazzi, ci dice Simone. E l'ultimo messaggio. Grazie Simone. L'ultimo messaggio, non si firma anche lei, perché siamo al 3-3, quindi Manuela e Giampaolo. Vai Manu, però non si firma, quindi è squalificato anche questo. Carla rimane sempre costernata quando si arriva verso la fine della trasmissione, sempre costernata. È arrivato un altro messaggio che ti salva in calcio d'angolo. Grande, non grazie è vero, due volte. Non sono stata io a mandare quel messaggio. Ma la sorella di Giampaolo. Comunque, e adesso si è scatenata. Comunque bella puntata, Nelly. Grazie Nelly. Ricordiamo a Nelly che noi e a tutti i ragazzi che stanno all'ascolto, che purtroppo questa sera abbiamo avuto dei problemi tecnici a livello di internet, perché dalle prossime puntate potete seguirci anche e mandare foto e potete condividere vostre emozioni lì al momento anche su Facebook. La pagina è Angelo e Carla, e a breve posteremo anche delle foto di questa memorabile trasmissione insieme con Giampaolo e Manuela. Ma vi ricordiamo che noi siamo in onda tutti gli ultimi lunedì del mese, dalle 9 alle 10, in diretta rigorosissima. Quindi è arrivato un altro messaggio e eccomi, adesso mi firmo, Francesca, quindi va bene, 3-3, vai Carla. Ed è possibile ricevere, quindi far recapitare lo studio di Radio Alma, cannoli e quant'altro, grazie. Tu che cosa ti faresti mandare? Io la mozzarella di bufala. Giampaolo e cannoli, tu che ti faresti mandare? Panettone. Il panettone. Dici, tanto la pubblicità la possiamo fare, non te la sente nessuno. Secondo te qual è il migliore panettone? Le Tre Marie. Le Tre Marie, sì. Sono al di là di quelli artigianali, tra quelli commerciali da supermercato, Le Tre Marie. Tre Marie, grande. Bene, bene, ritorniamo. E con Le Tre Marie noi vi lasciamo per 3 minuti, vi lasciamo ascoltare Diane Reeves e poi ritorniamo brevemente in studio per gli ultimi saluti. E Carla, presenta velocemente questo pezzo di Diane Reeves. Beh, Diane Reeves è una cantante jazz che va assolutamente fuori dalle linee, da una personalità che adoro, e il prossimo pezzo si chiama Endangered Species. E con noi sono stati in studio Manuela Jane, Giampaolo, alla regia Angelo, me e Carla, la partecipazione di Rosanna. E ciao, grazie. Grazie a te. E beh, vorrei dare la parola a voi per, non lo so se avete da aggiungere qualcosa. E faccio uno spot turistico al volo. Vai, visto che non abbiamo parlato tanto di Tunisia. Vai. Facciamo lo spot turistico. Beh, che c'è il mare, che c'è il sole e che c'è tante cose belle, lo sappiamo. Però se dovessi sintetizzare in una parola, venite a Tusa, perché a Tusa si balla. Si balla. Sì, si balla tanto, è un paese di ballerini. È il motivo anche per cui ho scelto la canzone con cui abbiamo aperto. Sì, sì. C'è una grande tradizione di ragazzi che ballano in liscio, e si balla in ogni occasione. E come si chiama quel posto strano, dove c'è quel teatro all'aperto di d'arte contemporanea? Sì, ovviamente c'è anche l'atelier sul mare e tutta la Fiumara d'arte, che è un'attrazione unica probabilmente a livello mondiale, perché è un museo a cielo aperto di arte contemporanea e anche un albergo museo con delle stanze d'arte, una cosa veramente. Ricordiamo di nuovo il nome, come si chiama? Atelier sul mare Fiumara d'arte a Castel di Tusa. Manuela. Sì, allora io non vi posso vendere l'estate a Varese, però vi dico un aneddoto così. Tusa in dialetto milanese vuol dire ragazza, una bella Tusa vuol dire una bella ragazza, quindi magari una bella Tusa è pure bella la città. Quindi vi aspettiamo, uno spot pure io per Tusa. Vi aspettiamo con una bella Manuela Jane a Tusa. E quest'estate ci vediamo tutti lì con tanti cannoli cannelloni, mia bella Madonnina. E noi vi ringraziamo, soprattutto le persone che ci hanno sorretto con i loro SMS. Non abbiamo avuto nessuna chiamata in studio, solo quella di ecco l'ultimo SMS, lo leggiamo al volo prima di lanciare vince, la sigla. Tutti a Tusa a ballare, vi aspettiamo quest'estate. Antonio, noi ti salutiamo, ti diamo grazie Antonio. Ciao Antonio. Un bacione grande. Noi ci vediamo l'ultimo lunedì del mese. Giampaolo vince ufficialmente i campionati con Angelo e Carla qui su Radio Alma, frequenza 101.9, oppure ci potete cercare su internet www.radioalma.eu. Noi saremo lì pronti a rispondervi anche alla nostra pagina Facebook Angelo e Carla, e noi vi lasciamo